Intermarata. Sanctus, Sanctus Dominus. Fideisti e fideiste di Radio Cage, razionalisti e non credenti, tutti quanti benvenuti. Benvenuti a un'altra puntata di Testo Croce Show. Siamo di nuovo qui, Livorno è ancora un pochino imbiancata, ma non quanto le volte scorse. Si sta sciogliendo, si sta sciogliendo. Però forse saremo di nuovo sotto la neve. Può darsi. Chi lo sa. Ma a voi quanto ve ne importa, cari ascoltatori? Vabbè, quelli che sono al caldo di sicuro non se ne curano troppo. Beh, in effetti. Va bene, diamo subito i nostri contatti. Sì, l'email per scriverci in diretta è testocroceshow@gmail.com. Altrimenti potete chattare con noi su Skype a Testo Croce Show. Chattare un parolone, insomma, potete mandarci i messaggi. Proprio chattare, anche, e poi ogni tanto date un'occhiata al nostro blog, commentatelo, testocroceshow.blogspot.com. Ricordate che la nostra trasmissione si regge sulla vostra partecipazione. E sulla religione. E sulla religione, certo. Naturalmente parliamo di religione con il sorriso sulle labbra, si può dire così. Però ben volere divino. Naturalmente, e soprattutto sulla fede. O su fede. Anche su fede, ricordiamo il nostro tecnico audio. Che è qui, naturalmente, e appunto regge la trasmissione dal punto di vista registico-tecnico. Sì, e direi andiamo con l'almanacco di Testa Croce Show. Andiamo con l'almanacco di Testa Croce Show prima di ricordare il nostro concorsone. Sì. Lo faremo dopo. Allora, oggi è giovedì 9 febbraio. Esattamente. I santi del giorno sono San Rinaldo di Nocera Umbra, vescovo, San Sabino di Avellino, vescovo, San Sabino di Canosa, vescovo, Sant'Eliavo Abate, Sant'Altone Abate, Sant'Ansberto Abate di Fontenelle, Santa Pollonia, Vergine e Martire, e infine, last but not least, San Marone Eremita. Ecco, quindi auguri a tutti i Marone e a tutti gli altri. Non male questi nomi. Bene, andiamo alle celebrazioni delle morti. Dunque, è una morte un po' poi sui generis, perché è un caso molto particolare. Perché in realtà parliamo non è una morte, è immortale. No, è un caso un po' più delicato. Parliamo di Eluana Englaro, che nel 2009, in questa stessa data, staccata dai macchinari che la tenevano in vita. Sì. Quindi diciamo un caso molto, molto particolare e molto spinoso. Caso molto chiave, no? per il discorso sull'autodeterminazione, e se volete appunto potete farci sapere cosa ne pensate ancora ora, perché ancora ora fa discutere, no? Sì. Poi è un caso appunto di confine fra cosa sia vita e cosa sia morte. Certo. E questa è la puntata, insomma, vedremo che è un tema che ricorrerà spesso. Come sempre, d'altra parte. Beh, sì, più del solito. Poi? Più del solito. Ne abbiamo altre? No, direi di no. Abbiamo però dei nati, nati il 9 febbraio, in passato Jacques Monod, che è morto nel 1976. Jacques Monod è un filosofo, biologo, che ha scritto un importantissimo libro, Il caso della necessità, che ha mostrato proprio come l'evoluzione, il caso appunto e la necessità insieme hanno forgiato la biodiversità senza il bisogno, perlomeno fra virgolette, diciamo, di un creatore, ecco, di una creazione. E poi è il compleanno di Little Tony, Joe Pesci, Mia Farrow e di un altro servo appunto di fargli gli auguri di compleanno più avanti, perché introdurrò così anche un brano musicale. Ok, io posso aggiungere Joseph Stiglitz, il premio Nobel per l'economia, grande oppositore della globalizzazione, e il compleanno della principessa Raya di Giordania. Inoltre vi ricordo invece la nascita un po' di tempo prima, nel 1645, di Johann Egidius Bach. Non confondersi con Sebastian. Ma tu stai scherzando? No, però. Non sto scherzando. No, ascolta. Però stavolta è un compleanno, non è una morte. Ok, però voglio dire. Violista tedesco. Ma quanti erano i fratelli Bach? No, giusto per capire. Vabbè, fratelli, padri, nipoti, però. È un cognome molto comune. Ecco, d'accordo. Che ogni giorno sia nato un Bach. Bach musicista, ovviamente. D'accordo. Allora, passiamo quindi a ricordare il nostro concorsone esistenziale. Oggi non vi porremo una domanda, ma vi diamo tempo, un domandone, per a quelle che ci sono già. Che sono, la prima, chi è il diavolo per voi? Poi, qual è il potere più duraturo al mondo? Secondo voi esiste il libero arbitrio, siamo determinati? Oppure, l'ultima, se i nomi e le categorie sono una necessità oppure una fonte di inquietudine per l'uomo. Benissimo, qual è il premio? Il premio è la mela morsicata da Eva. Ah, ma io avevo sentito parlare di un iPod, però. No, l'iPod appunto è un premio di riserva nel qual caso la mela non fosse per qualche motivo disponibile. Ecco. E beh, chissà che non succeda. Sì, cioè, ci scusiamo in anticipo se dovesse accadere, insomma, se dovesse accontentare e vi accontentereste di un sì, insomma, di riserva. Benissimo. Ecco. Mi dispiace per questo. Benissimo, allora ci carichiamo con un bel brano musicale. Abbiamo tempo per rispondere, appunto, sì. E ci andiamo a sentire un pezzo dei Red Hot Chili Peppers. Dei vecchi Red Hot Chili Peppers, aggiungerei Suck My Kiss per la precisione. Oh yeah. Rieccoci tornati, amici ascoltatori. Sì, esattamente. Ah, ci scusiamo, c'è qualche problema audio, cioè, ci hanno detto. Quindi, insomma, ci scusiamo per la... Adesso sembra che... Speriamo che sia risolta. Adesso sembra risolto. Ci stanno ascoltando Francesco e Aurora, che ci scrivono: siete le nostre guide spirituali in queste notti buie esistenziali che stiamo vivendo. Ah, che bello. Specie Aurora, che è malata, quindi un augurio di pronta guarigione ad Aurora. Sì, e anche, salutiamo anche Claudio, che ci ascolta da Livorno, ci ha segnalato appunto qualche interferenza, difficoltà, comunque sì. Ci ha confermato quello che già sospettavamo. Esatto. Va bene, andiamo allora, a leggere qualche notizia. Sì, volevo partire con una sorta di notizia, segnalazione, non so come chiamarla. Il sito Liberamente Servo, che offre diciamo un servizio gratuito di calendario di eventi spirituali e quant'altro, diciamo il curatore di questo sito ha avuto l'idea di creare insieme onde d'amore che, iniziando da tutti noi, ovunque sparsi, si propaghino fino a sommergere tutto il mondo con la gioia, la luce, la pace, l'armonia, la serenità e la fratellanza. Utilizzeremo principalmente il kirtan, antica pratica dal grande potenziale d'amore, in grado di attivare ogni cuore e di riarmonizzare mente, anima e spirito. È un ballo, una sorta di esatto, ballo, no? Esatto. Danza, ipnotica. Sì, risvegliare le coscienze elevando le stati molto elevati, eccetera. La cosa simpatica è che ha deciso praticamente di tutti coloro che aderiscono creano onde d'amore attraverso il kirtan, eventualmente la meditazione, insomma, ma comunque il dedicare pensieri d'amore, no, al mondo, di farlo tutti insieme il giovedì dalle ore 18:30 in poi. Quindi è in corso questa creazione. Noi non possiamo farlo per ragioni pratiche. Non possiamo fare, sì, perché si fa insomma in piedi, sicuramente. Si fa il kirtan, sì, però il creare onde d'amore, no, diciamo quello sì. Anzi, testa croce, direi che anche se... l'ha sempre fatto, giusto? L'ha sempre fatto, ma adesso ha maggior ragione, no? E volevo giusto far sentire 20 secondi di kirtan, giusto per far capire a chi non lo conosce di che si tratta, e poi lo togliamo subito. Insomma, c'è anche la voce? C'è anche la voce, lo teniamo magari in sottofondo dopo, sì. Dopo un po'. Sentiamo. Bhavanam kevalam, bhavanam bhavanam kevalam, bhavanam. Insomma, dai, che è caruccio, sì, direi. Quindi, ecco, create, cari ascoltatori, anche voi onde d'amore che travolgano il mondo. Feel the love, spread the love. Esatto. Andiamo con un'altra con notizia. Sì, con l'attualità di alto livello, perché appunto su Religion News ho letto che Harry Potter ritiene che la manifesta religiosità di molti candidati repubblicani alla Casa Bianca sia un problema. Harry Potter in realtà è Daniel Radcliffe, cioè l'attore che impersona Harry Potter. Mi sembrava strano Harry Potter. Non so se lo sapevi, ma è un fervente ateo. Non so se si può dire fervente insieme a ateo. Penso no, di... fervente in radio, infatti è meglio non dirlo, però. No, comunque no, insomma, non lo sapevo. Sì. Sì, ha espresso pubblicamente i suoi dubbi nel fatto che molti candidati manifestino apertamente la loro religiosità. Ma senti là, questo è... notizia interessante. Poi vabbè, posso dire dal The Telegraph che per la prima volta nella storia ci sono più pretese che preti a venire ordinati nella Chiesa d'Inghilterra. I dati risalgono al 2010, si parla di 290 contro 273 a essere stati ordinati. E questo solo dopo 20 anni da quando è stato consentito l'accesso alle donne alla Chiesa anglicana. Sentila. Comunque nel complesso ci sono ancora più maschi, ovviamente, perché ci sono da sempre i maschi, le donne ci sono da poco, ma nonostante questo sono soltanto, cioè c'è una differenza minima, sono 8087 maschi e 3535 donne. Non me l'aspettavo, sinceramente, cifre così alte. Beh, girl power. Ah sì, comunque possiamo stare... tranquilli, perché la prossima settimana è previsto un sinodo per decidere se le donne potranno ricoprire anche il ruolo di cardinali, e ci sono ovviamente molte proteste da parte delle alte cariche della Chiesa che vogliono mantenere il loro potere. Naturalmente. Tra l'altro coincide in qualche senso questa grande partecipazione femminile, no? Con alcune statistiche che fanno rilevare come la fede, insomma il mondo della spiritualità, eccetera, eccetera, siano maggiormente seguiti dal lato femminile. Non sapevo questo. Da alcune statistiche. Comunque, parlando di donne e fede, una notizia dello scorso giovedì, a Napoli in 20.000 hanno pregato al Palargine di Ponticelli, Napoli, con la veggente di Međugorje, Mirjana Dragicevic Soldo. Questo cognome un po' così. Chi ha gridato al miracolo. È successo all'uscita dal palazzetto, quando ormai la veggente si era già allontanata, scortata dalla polizia a bordo del furgoncino sulla quale era arrivata l'Erzegovina. I fedeli hanno applaudito, poi hanno guardato il cielo, cominciando a urlare al miracolo. Gruppi di pellegrini hanno affermato di aver visto nel cielo il fenomeno famoso del sole che pulsa. Non più di tanto famoso, sarebbe. Beh, insomma, cioè una cosa tipica di... dell'apparizione di Međugorje. La veggente ha pregato al termine della celebrazione, in cui per mezz'ora sono state distribuite ostie, 20.000 e più. L'apparizione non è arrivata subito, è stato completato un intero rosario prima che il volto di Mirjana si illuminasse. Poi, tra l'altro, in questa occasione, Mirjana ha tuonato contro i non credenti. Ha detto addirittura che la nostra Santa Madre ci ha chiesto di pregare per i non credenti che ancora non hanno conosciuto l'amore di Dio. Tante brutte cose nel mondo arrivano dai non credenti. Guerre, separazioni, suicidi, droga, aborti. Vabbè, da qualche non credente sicuramente, anche da qualche credente, che appunto non significa poi nulla sostanzialmente. Andiamo con un po' di musica, andiamo direi. Con un po' di musica, e la musica il brano che ci ascoltiamo adesso è El Gusto dei Los Lobos. Siamo di nuovo qui su Testa Croce Show. Sì. E vi parliamo adesso di un'uscita bibliografica, un'uscita di un libro, L'ultimo esorcista, la mia battaglia contro Satana. Chi sarà mai? È un personaggio che abbiamo già incontrato nel nostro percorso. Il libro è infatti l'autore è Gabriele Amort, l'esorcista. È un libro scritto con il vaticanista Paolo... L'esorcista, vabbè, sì. Esorcista con la E maiuscola. Vabbè. Scritto con il vaticanista Paolo Rodari, edizioni PM. Vatican Insider ha pubblicato un estratto che parla di un episodio, insomma Amort descrive un episodio che coinvolge anche Papa Ratzinger. Dunque, due assistenti di Amort entrano a Piazza San Pietro in occasione dell'udienza del Papa, accompagnate da due uomini posseduti, Giovanni e Marco. Li vogliono portare vicino al Papa perché pensano che potrebbero trarne giovamento. Fingendo un malore, una delle assistenti riesce a portarli molto vicino al punto dove sarà Ratzinger. A questo punto chiedo a Federico di metterci un brano in sottofondo che mi sembra adatto al racconto. Ecco, e poi procediamo con la lettura di questo. Lo sospettavo che sarebbe stato questo. Fateci sapere se l'avete riconosciuto. Ecco. Comunque, cominciamo appunto con parte di questo estratto. Suonano le 10. Dall'arco delle campane, il portone a fianco della Basilica Vaticana, esce una jeep bianca. Sopra tre uomini. Un guidatore, il Papa in piedi, e seduto al suo fianco il suo segretario particolare, Monsignor Georg Genswein. Le due donne si girano verso Giovanni e Marco, istintivamente li sorreggono con le braccia. I due infatti iniziano ad avere comportamenti strani. Giovanni trema e batte i denti. Le due donne capiscono che qualcuno sta cominciando ad agire nel corpo di Giovanni e Marco. Qualcuno che col passare dei minuti si mostra sempre più agitato. «Giovanni, mantieni il controllo di te stesso», dice una delle due donne. L'altra donna dice le stesse parole a Marco. Giovanni non sembra ascoltare le parole della donna, salvo d'improvviso girarsi e dirle con voce lenta e che sembra venire da non si sa quale mondo: «Io non sono Giovanni». La Jeep compie un lungo percorso. Poi arriva in cima alla piazza, a pochi metri dal portone della Basilica Vaticana. Il Papa scende dall'auto e saluta le persone poste nelle prime file. Giovanni e Marco insieme iniziano a ululare. Sdraiati per terra, ululano. Ululano fortissimo. «Santità, santità, siamo qui!» urla al Papa una delle due donne, cercando di attirare la sua attenzione. Benedetto XVI si gira, ma non si avvicina. Vede le due donne e vede i due giovani uomini per terra che urlano, sbavano, tremano, danno in escandescenze. Vede lo sguardo d'odio dei due uomini, uno sguardo diretto contro di lui. Il Papa non si scompone, guarda da lontano, alza un braccio e benedice i quattro. Per i due posseduti è una scossa furente, una frustata assestata su tutto il corpo, tanto che cadono 3 metri indietro, sbattuti per terra. Adesso non urlano più, ma piangono, piangono, piangono, gemono per tutta l'udienza. Quando poi il Papa se ne va, rientrano in se stessi, tornano se stessi e non ricordano nulla. Benedetto XVI è temutissimo da Satana. Le sue messe, le sue benedizioni, le sue parole sono come dei potenti esorcismi. Non credo che Benedetto XVI compia esorcismi, o almeno la cosa non mi risulta. Credo, tuttavia, che tutto il suo pontificato sia un grande esorcismo contro Satana. Il modo con cui Benedetto XVI vive la liturgia, il suo rispetto delle regole, il suo rigore, la sua postura sono efficacissimi contro Satana. La liturgia celebrata dal pontefice è potente. Satana è ferito ogni volta che il Papa celebra l'Eucaristia. Eh beh, cari amici, è affascinante, ma comunque questo sottofondo è veramente fantastico. Veramente la tua lettura questo è stata magistrale. Ma io voglio comprarmi questo libro, assolutamente. Ecco, sì. Diciamo appunto da chi è edito? PM, bene, così se qualcuno vuole andare. Edizioni PM è uscito da poco. Acquistarlo. Sì, sì. No, acquistatelo in tantissimi, fateci sapere di che si tratta, che ne pensate. Bene, qualche altra ansia? Sì, allora, dall'Huffington Post, dunque, un altro epico caso di potere della Bibbia, in un certo senso, che scaccia il male, ma un male un po' più tangibile, perché mercoledì nella scorsa settimana Lindsay Wood, 32enne di Shelby, North Carolina, era appena tornata da un seminario di studio della Bibbia, quando qualcuno si è introdotto a casa sua, poi, senza apparente motivo, le ha tagliato la gola. Lei non era morta, e intanto suo figlio, il figlio della Wood, era fuori a gettare la spazzatura, e quando ha visto cosa era successo si è nascosto all'angolo della casa. Il vicino Faye Cook ha raccontato: lei ha detto al suo aggressore di non fare del male perché amava il Signore e suo figlio, ma siccome questo non sembrava funzionare, la Wood ha iniziato a leggergli la Bibbia. L'ha persino invitato alla sua chiesa, ha riportato il capitano della polizia Rick Stafford. Dopo circa un'ora e mezza, l'uomo si è scusato e se n'è andato. Wood adesso è in rianimazione con respiratore e tubo per alimentazione. Ecco, ora non so se dopo un'ora e mezzo magari se n'è andato perché aveva fatto già i comodi suoi, forse. Beh, in effetti. È un po' una storia bizzarra, però sì, insomma, sì, è sì. Power of the Bible. Effettivamente. Sì. E sempre a proposito di... Sempre a proposito di, di ebrei, sì. Si sono recentemente offesi moltissimo perché il vescovo battista Eddie Long, in un video che ha fatto il giro del mondo, si è fatto avvolgere in una Torah che si dice risalisse ai tempi dell'Olocausto, addirittura fosse scampata all'Olocausto, sì. E si è fatto incoronare re da un presunto rabbino durante appunto una cerimonia nella New Birth Missionary Baptist Church. Sì. E, sì. Poi ovviamente si è scusato dicendo, per la precisione, si è scusato con la Lega Antidiffamazione che l'aveva insomma fatto presente che era una cosa spiacevole. Si è scusato dicendo: la cerimonia non è stata una mia idea né era mia intenzione partecipare a un rituale che fosse ritenuto offensivo in alcun modo per la comunità ebraica o qualunque altra. Inoltre prendo le distanze da qualunque atto che mi dipinga come re perché sono solo un semplice servo del Signore. Però intanto lo show era in effetti di pessimo gusto, se non altro perché si parla di un reperto e quindi ci vorrebbe un po' di rispetto solo tanto per quello, ecco. Non so se ci ascoltate ancora, intanto vi tengo un po' compagnia dicendo delle stupidaggini. Beh, per esempio vi posso parlare della finta campagna di Benetton che è girata in questo periodo su Facebook. Mi hanno mandato un link. Se vi ricordate, avevamo parlato della campagna che vedeva Ratzinger che si baciava con un altro uomo, che però è stata censurata. Ora, ultimamente gira un finto manifesto di Benetton, non è fatto veramente da Benetton, perché sul sito non compare, in cui c'è addirittura un disegno di Gesù e Lucifero che si baciano. E questo ovviamente ha scandalizzato tantissimo molte persone, e tanti se ne sono presi anche con Benetton perché c'è stato messo il marchio, ma ovviamente si capiva subito che era un falso. Certo. Comunque era il marchio, era quello della Un-Hate Campaign di Benetton, che appunto utilizzava questi stratagemmi ma con politici sostanzialmente, e poi l'ha fatto anche col Papa prima di essere censurata. Benissimo, ci scusiamo per aver avuto un attimo di incertezza tecnica. Stavo dicendo appunto. Ora è tutto risolto, perfettamente. Dicevamo, Elvis Perkins ha perso il padre a 16 anni e la madre a 25. Infatti, la madre appunto era tra i passeggeri. No, se te che fai qualcosa, perché non è possibile. Scusate ancora, bene, cosa vi posso raccontare? Vediamo. Ho terminato le notizie. Beh, vi posso preannunciare che, insomma, io direi di mandare intanto un pezzo. Vai. Così mandiamolo. E quindi mandiamo questo pezzo di Anthony Perkins, suppongo, no? Sì. Cos'è? Sì. Eccolo, Slip Sandwich. Infatti. Last night was the science fiction, sing lullabies into the unborn fans. You write the Bible and I'll read it off my eyelids. Then we'll be great. Rieccoci, amici ascoltatori, con qualche problema sempre, ma non ci sono problemi. Vincenzo è dovuto assentarsi un attimo, quindi vi terrò compagnia io per il momento. Andiamo vi introduco con alla religione della novità assoluta di oggi, insomma. Quest'oggi parliamo di Agori. La setta degli Agori è una setta in realtà antichissima, delle radici nell'induismo. E è molto antica e ha delle tante somiglianze con la setta capalica, che le cose che le accomunano sono sostanzialmente il rapporto stretto con la morte. Anche i capalica, come gli agori, girano con un teschio umano portandoselo dietro. Spesso vengono confusi, ma gli agori in realtà sono molto più estremi. Sono una setta tantrica. E diciamo che comunque la setta degli Agori, come oggi, fa risalire la sua nascita in realtà a non molto tempo fa. Ecco perché rientra nella categoria delle novità assolute. Perché fa risalire la nascita alla morte. Prove tecniche, radio cage. C'è qualche problema. Finalmente avete conosciuto la voce del tecnico. Ecco, questo è Fede, vi presento Fede. Era tantissimo che avevo questo sogno di far partecipare anche Fede al microfono e ci sono riuscito in questo modo un po' in diretto. Perfetto. Ecco. Avete sentito, è tornato anche Vince. Sì, più o meno, quindi dicevi 700, dunque, quindi siamo usciti un po' dal limite eccezionalmente. Fa risalire la setta degli Agori attuale, alla sua morte, cioè la sua nascita alla morte di Kinaram nella seconda metà del 700, quindi siamo di poco sforati dai 200 che dicevamo solitamente, e la morte è avvenuta a 150 anni secondo quello che dice la tradizione. Vi vado a leggere qualcosa su Kinaram, anzi se vuoi aiutarci tu, Vince. Certo, è proprio la giornata adatta. Allora, si narra che a 12 anni, 3 giorni prima della data prevista per le nozze, il giovane Kinaram, certamente, volle a tutti i costi mangiare un piatto di riso bollito nel latte, pietanza generalmente considerata di cattivo auspicio, essendo tradizionalmente consumata in occasione delle ricorrenze funebri. Il giorno seguente la famiglia del giovane Kinaram ricevette l'infausta notizia del decesso della fanciulla promessa in sposa al ragazzo. Tale evento destò lo stupore di tutti coloro che lo videro mangiare cibo di lutto il giorno prima dell'accaduto. Alcuni anni dopo abbandonò casa e famiglia e vagò errando solitario come sadhu, cioè come asceta. Giusto? Sì, asceta. Un giorno gli apparve Dattatreya, che lo iniziò alla tradizione Agora. poi si spostò in ritiro sull'Himalaya per un lungo periodo di pratiche ascetiche. Successivamente si incamminò verso Benares, dove raggiunse il campo di cremazioni di Harishchandra Ghat. In quel luogo dimorava una asceta agora, di nome Baba Kaluram, che era solito parlare con le teste dei corpi che aspettavano di essere cremati sulla pira. Gli rispondevano? Probabilmente sì, lui ci parlava comunque, quindi quello che ci interessa poi è questo, lui ci parlava. Quando vide Kinaram, Kaluram gli rivelò che era molto affamato e chiese lui di procurare un po' di pesce. Kinaram guardò il Gange e disse: «Gange, dammi un pesce!» Ed un grosso pesce saltò fuori dall'acqua, cadendo su una riva. Kinaram lo arrostì e lo mangiarono assieme. Poco dopo, Kaluram osservò un corpo senza vita che galleggiava sul fiume. «Guarda quel corpo, viene verso di noi», disse rivolgendosi a Kinaram. Ed egli rispose: «Non è un corpo, è vivo». Allora Kaluram lo sfidò: «Se è vivo, chiamalo». Kinaram urlò verso il corpo, questi galleggiò verso di lui e poi si alzò in piedi sulla riva. Era un giovane ragazzo. «Vattene a casa», gli disse Kinaram. Si dice inoltre che Kinaram, durante alcune occasioni, quando diventò poi il maestro principale della setta Agori, cospargesse addirittura i suoi presenti con la sua urina. Ma se lo facevano fare? Se lo facevano fare, perché si narra che ciò che proviene dal corpo di un agori abbia proprietà medicinali. Questo era per presentare un po' il personaggio che ha dato poi una nuova vita, diciamo, a questa setta la forma sparuta, moderna, okay, di questa, comunque sparuta, di questa. Perché al giorno d'oggi si stima che ci siano a Benares, che è il luogo principale, la città principale degli agori, circa una quindicina di agori e in tutta l'India un centinaio, mentre ai tempi di Kinaram, poco dopo, insomma, erano qualche centinaio, comunque non mai tantissimi. E ora vediamo perché. Perché gli agori sono una setta molto particolare. Io mi sono documentato sul libro Death and Regeneration of Life di Maurice Bloch e Jonathan Perry. Dunque, si dice che gli agori intanto vanno oltre le convenzioni che affermano l'irrilevanza vanno oltre le convenzioni affermando appunto l'irrilevanza della divisione in caste. Questo già è molto particolare come visione. Certo. Perché? Perché praticamente la divisione in caste è una forma di divisione e quindi non permette la riunificazione col tutto, che è un fulcro poi dell'induismo, in fondo. È un concetto chiave, però comunque le caste permangono. E loro invece affermano l'irrilevanza delle caste. Inoltre non incoraggiano l'elemosina, a differenza di tutte le altre sette, perché loro affermano che dipendere da altri non consente una liberazione totale. Per questo l'agori si rende totalmente indipendente col suo stile di vita estremo. E ora andiamo a vedere intanto la divinità che adorano principalmente gli agori, che è Shiva. Chissà perché. Leggiamo, vi leggo una descrizione di Shiva fatta dal suocero Daksha, dio creatore, ricordiamo, quindi ben importante, nel Bhagavata Purana. Egli vaga in tremendi cimiteri, popolati di goblin e spiriti, come un pazzo, nudo, coi capelli scarmigliati, ridendo, piangendo, cosparso di ceneri provenienti da pire funerarie, indossando una ghirlanda di teschi e ornamenti fatti d'ossa. Folle, amato dai folli, il signore degli esseri la cui natura è essenzialmente oscura. Pensate un po', questo è Shiva secondo Daksha, il suocero di Shiva. Ah, ma il suocero di Shiva? È il suocero di Shiva, sì. Kinaram. No, di Shiva proprio, e questo è appunto nella Bhagavata Purana, uno dei testi importanti dell'induismo. E adesso leggiamo invece la testimonianza di un agori che ci fa capire, l'ho vista in un filmato, un documentario, la testimonianza di un giovane agori nella sua iniziazione, e ci dice appunto cosa fa quando medita, ad esempio, e dove lo fa. Allora, questo giovane agori dice: «Medito tra mezzanotte e le due nei luoghi di cremazione, quando le persone sono troppo impaurite per andarci e regnano i fantasmi, quindi il luogo è silenzioso». Bene. Ha senso. Ha senso. E inoltre, per rendersi simile a Shiva, cosa fanno? Si cospargono di cenere di morto che prendono dai luoghi di cremazione, dalle pire funerarie. È una cenere molto bianca, la prendono, la mettono nel loro teschio rituale con cui girano sempre, la impastano e se la cospargono addosso, e questo mi rende più simile a Shiva. Inoltre, sempre questo giovane agori afferma che questa mistura di cenere scaccia anche gli insetti, oltre a essere molto purificatrice perché è costituita dai cinque elementi principali. Aspetta, qual è il quinto? Non lo so, onestamente, non lo so. Ditecelo voi. Non so se è il prana, credo sia il prana. Ah, il prana. Se lo sapete, ditecelo voi. Tra parentesi, colgo l'occasione per salutare Valentina che prima della puntata ci ha fatto sapere che avrebbe seguito con particolare interesse questa puntata perché è ferrata un po' sul tantra, sull'induismo, e magari appunto troverà qualcosa da scriverci. Bene, direi di fare intanto una pausa musicale e ci andiamo a sentire un pezzo dei Death, appunto, in tema. E Sound of Perseverance, questa è una traccia solo strumentale. Sentiamo. Eccoci di nuovo qua a parlare di Agori. Dunque, andiamo un po' più nel dettaglio. Intanto abbiamo detto che adorano Shiva. Intanto Augar è un epiteto di Shiva che fa riferimento alla sua noncuranza del tutto, mentre Agori significa A, che è privativo, e Gora, che significa crudele, pauroso, terribile, anche sì, anche oscuro. Quindi loro praticamente sono l'opposto della crudeltà, della paura, del terribile. È bellezza la Gori, perché per la Gori tutto è bello sostanzialmente. Arbangi invece è una parola che fa riferimento al perseguimento dei desideri impellenti senza esitazione, tipico della Gori. Ad esempio, sentiamo cosa ci dice il nostro riguardo aspirante Agori riguardo i desideri impellenti. Sì, sto diventando un aspirante Agori anch'io. Mi nutro di qualunque cosa, anche feci e carne umana. Ritiro tutto, ritiro tutto. Il mio maestro diceva sempre, e io ne ho fatto esperienza, che pollo o uomo, sempre di carne si tratta. Non mangio per il gusto, ma per il desiderio bruciante che sento e che mi rende inquieto. Se fossi sufficientemente affamato, toglierei un cadavere dalla pira e lo mangerei. E non solo, ma questo viene fatto talvolta dagli Agori, anche se pare che comunque tutti questi nuovi eccessi, tra cui ricordo anche appunto nutrirsi di feci, di urina, di carne umana, cuocere la carne sulle pire funerarie, bere alcol anche, che tipicamente non è una cosa che fanno gli induisti, talvolta anche fumare sostanze stupefacenti, sono tutte cose che loro fanno perché per loro non c'è nulla che non sia sacro. Quindi, essendo tutto sacro, devono farne esperienza e soprattutto non devono provarne disgusto, perché questo disgusto gli impedirebbe di essere concentrati durante la meditazione, praticamente. Infatti sentiamocelo, dice anche il nostro aspirante Agori, addirittura condivide il cibo con i cani, giusto? Condivido il cibo con i cani e le vacche e mi nutro di scarti. Se fossi preoccupato da cose come il disgusto o il timore, come potrei meditare? E quindi questo è il motivo per cui loro si liberano dal disgusto facendo esperienza di queste cose estreme. Dunque, poi possiamo, un'altra cosa interessante è che loro ritengono che l'identificazione totale con Shiva li porterà a diventare essi stessi Shiva e acquisire il ruolo quindi di Mahamaritunja, ovvero conquistatore della morte, cioè l'unica divinità che sopravvivrà alla distruzione del cosmo. Un'altra divinità, che poi in realtà è una manifestazione soltanto di Shiva, a cui si rifanno, è Bhairava, che è quella che rappresenta il teschio che loro si portano sempre dietro. Ora, questo teschio, come vi ho detto, è un oggetto rituale tipico degli Agori, anche della setta di Kapalika, però è interessante come se lo procurano. Praticamente il maestro chiede loro di andare a cercare un cadavere nel Gange, sostanzialmente sulle rive del Gange, e poi devono essere loro stessi a tagliare la calotta, a ripulirla e poi trasformarla nella loro ciotola, in cui loro mangiano, impastano la cenere, bevono. Niente male. Tutto quello che passa, che entrerà nel loro corpo, loro lo fanno passare prima da questa ciotola fatta con una calotta cranica. Sì, è una cosa molto estrema, in effetti. Poi parliamo un po' di qualche rituale particolare che fanno. Dunque, oltre vabbè, a sottrarre spesso i sudari ai morti e vestirsi di quelli, che è un altro sintomo della loro indipendenza, comunque non hanno bisogno di vestirsi, se non hanno bisogno di comprare i vestiti, li prendono dai morti che, di cui insomma, vabbè, che non se ne serve. No, e poi più che altro non è, affermano che non mi serve più ai defunti il sudario. Sì, ecco. Sì, concordo. Parliamo di un rituale detto Sava Sadhana, in cui l'agori siede, siede sul torace di un cadavere e vi comunica tramite altri spiriti, ottenendone il controllo. Un rituale di offerta a Shiva prevede invece il sacrificio nel fuoco di carne, frutta e liquore. Questi sono due rituali tipici. Ora vediamo cosa succede quando un agori, o agori, appunto, ormai non so più neanche io come si pronuncia, raggiunge il samadhi. Cioè il samadhi sarebbe l'illuminazione, lo stato di beatitudine perpetua. Quindi vuol dire che questo ce lo ha fatto sapere qualcuno che ha raggiunto il samadhi? Beh, ovviamente ce lo fa sapere, ce lo fanno sapere i maestri agori. Ecco. Allora, in tempi antichi, un agori che raggiunge il samadhi, entrando in uno stato di perpetua meditazione, veniva sepolto vivo, talvolta rompendone la spina dorsale in modo da rendere la sua postura stabile. E il simbolo fallico di Shiva veniva posto sopra la sua tomba. La credenza vuole che il corpo così sepolto rimanesse eternamente preservato, venendo abitato di tanto in tanto dall'anima del sadhu al ritorno dai suoi viaggi nei tre loka, cioè regni nell'aldilà, dell'aldilà. Comunque, la conclusione importante, al di là di queste cose comunque un po' truci, effettivamente, che scandalizzano un po', secondo gli studiosi, appunto autori del libro su cui mi sono basato, è che praticamente gli agori puntano all'inversione delle tendenze e alla coincidenza degli opposti. Tutto quello che fanno è relativo a questa tendenza. Quindi il teschio diventa un contenitore di nutrienti, quindi di vita. Le feci e i cadaveri che sono scarti diventano cibo. L'impuro diventa puro. In questo modo loro appunto abbattono i dualismi e riconquistano lo stato iniziale di indifferenziazione. A questo punto, se volete diventare degli agori, vi suggerisco di recarvi a Benares, l'ashram, cioè il tempio in un certo senso di Benares, che è quello più importante, e dove i guardiani che si succedono a generazione dopo generazione vengono considerati essere tutti quanti avatar di Kinaram. Attualmente siamo al 12° successore. Ci andrò senz'altro. Sì, vabbè, in India, Benares è una città abbastanza importante. Se vi capita di passare da quelle parti, fateci sapere se incontrate un agori. Non è molto semplice, sono veramente pochissimi, appunto, come vi ho detto, sono qualche centinaio in tutta l'India addirittura. No, molto interessante, potremmo far partire riflessioni su vari temi, insomma, no? Sull'affrontare per esempio quello che ci spaventa, no? Sull'affrontare le proprie peggiori paure, no? Per diventare indifferenti e quindi aiutare la meditazione e l'imperturbabilità, ma non lo faremo. Distaccarsi anche dal disgusto e da certo, qualunque certo. Cosa. Vi dico una cosa rapidissima. Sì. Che questo aspirante agori nel documentario scontenta il suo maestro proprio perché si reca a un certo punto della sua iniziazione a trovare la famiglia, cosa che non dovrebbe assolutamente fare. No, e si vede che insomma è molto contento di vederli, e la mamma gli prepara tantissime cose buone da mangiare. Insomma. E lui le mangia? E lui le mangia. Sacrilegio. Sì. Beh, no, non è vietato, però diciamo che dovrebbe essere distaccato dalla famiglia, tutto qua. Va bene, riusciamo a mandare un ultimo brano? Sì, spero di sì. Direi che lo mandi tu, Vinci, visto che la tua voce è inudibile, ci dicono ancora, almeno sentiamo ancora? La tua musica. Questo è Night Glory dall'omonimo album, l'ultimo, dei Killian Camera. Sono italiani e fanno musica elettronica. Sentiamo. Siamo in diretta, quasi. Io sempre la mezza voce. Siamo tornati, siamo in leggero ritardo, quindi andiamo velocissimi. Due segnalazioni. Allora, Livorno, beh, in realtà queste sono due, ma le dico insieme. Sabato 11 febbraio alle 17:30 dalla libreria Belforte ci sarà il dottor Emiliano Carnieri che presenterà la mostra Homo Sapiens di Roma, quella di Cavalli Sforza e Telmo Pievani per il Darwin Day 2012. E la sera alle 21 presso il Teatro Officina Refugio, Scali del Refugio 8, ci sarà un evento straordinario che riunisce alcuni tra i più grandi protagonisti della scena teatrale labronica: Laungerie, Pardo Fornaciari, Burloni, Renato Resi, Tozzi Fan, Filippo Scarparo, Licaoni e anche i Paguri, quindi Caluri e Pagani, gli autori di Don Zaucher. A fine di serata, DJ set a cura di Enrico Fiorini, ingresso offerta libera. Questa serata si chiama Cabaret Voltaire, siete tutti invitati. Inoltre, se siete dalle parti di Bollate, Milano, c'è un incontro metafisica all'insegnamento dei maestri ascesi, sottotitolo Felicità, che sarà il 14 febbraio 2012 alle 20:30, dalle 20:30 alle 22:30. Ora si parlerà di perché non siamo felici, come esserlo, l'uso del raggio cosmico verde, della salute, guarigione e felicità. Poi parleremo della pratica del perdono, la fiamma violetta trasmutatrice. Mi ricorda forse... qualcosa questo? Esattamente, a me ricorda l'I Am Movement, di cui abbiamo parlato in una delle puntata. Prime puntate. Sì. E comunque i maestri ascesi, anche loro appunto sono i maestri che guidano i praticanti dell'I Am Movement. Poi dunque, vi andate semmai a cercare l'evento, si intitola Metafisica, l'insegnamento dei maestri ascesi, Felicità, a Bollate, Milano, 14 febbraio 2012, dalle 20:30 alle 22:30. Benissimo, allora noi ci scusiamo di nuovo per i problemi tecnici, strumentali, comunque indipendenti dalla nostra volontà e dal nostro impegno. Cose che capitano. Assolutamente sì. Vi ricordiamo velocemente i contatti. L'email è testacrocesshow@gmail.com. Skype è Testa Croce Show. E il blog è testacrocesshow.blogspot.com. Rispondete alle domande del concorso, ne trovate anche sul blog, nell'email che vi ho mandato dalla mailing list e nell'articolo di Radio Cage. Avete tempo fino alla prossima settimana, probabilmente. E ringraziamo Federico, dopo di noi dietro l'angolo e poi Arena Top Again. Esattamente, vi salutiamo con ci John salutiamo Lennon come al solito. Come al solito con la nostra sigla e ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao a tutti. Imagine.